Le ore della passione di nostro Signore Gesù Cristo, scritte da Luisa, la piccola figlia della Divina Volontà. Nona ora, dall'una alle due di notte. Gesù, sbalzato da una rupe, cade nel torrente Cedron. Preghiera di preparazione. O Signore mio Gesù Cristo, prostrata alla Tua divina presenza, supplico l'amorosissimo Tuo cuore che voglia ammettermi alla dolorosa meditazione delle 24 ore, in cui per nostro amore tanto volesti patire, nel corpo adorabile e nell'anima Tua santissima, fino alla morte di croce. Deh, dammi aiuto, grazia, amore, profonda compassione e intelligenza dei tuoi patimenti, mentre ora medito l'ora dall'una alle due di notte. E per quelle che non posso meditare, ti offro la volontà che avrei di farle, e intendo intenzionalmente meditarle in tutte le ore che sono costretta o di applicarmi ai miei doveri o di dormire. Accetta, o misericordioso Signore, la mia amorosa intenzione e fa che sia di profitto per me e per molti, come se effettivamente e santamente eseguissi quanto desidererei di praticare. Intanto grazie ti rendo, mio Gesù, che per mezzo della preghiera mi chiami all'unione con te e per piacerti di più prendi i tuoi pensieri, la tua lingua, il tuo cuore, e con questo intendo pregare, fondendomi tutta nella tua volontà e nel tuo amore. Estendendo le braccia per abbracciarti, poggio la mia testa sul tuo cuore ed incomincio. Amato mio bene, la mia povera mente tra la veglia ed il sonno ti segue. Come posso darmi in preda del sonno se vedo che tutti ti lasciano e fuggano da te? Gli stessi apostoli, il fervente Pietro, che poco fa ha detto di voler dare la vita per te, il prediletto discepolo, che con tanto amore hai fatto riposare sul tuo cuore. Ah, tutti ti abbandonano e ti lasciano in balia dei tuoi crudeli nemici. Mio Gesù, sei solo. I tuoi purissimi occhi guardano d'intorno per vedere se almeno uno dei tuoi beneficiati ti segua, per attestarti il suo amore e per difenderti. E mentre scorgi che nessuno ti è rimasto fedele, il cuore ti si stringe e dai in dirotto pianto. E tu senti più dolore per l'abbandono dei tuoi più fidi che per quello che ti stanno facendo gli stessi nemici. Mio Gesù, non piangere, o piuttosto fa che io pianga, io insieme con te. E l'amabile Gesù par che dica: ah figlia, piangiamo insieme la sorte di tante anime a me consacrate, che per piccole prove, per incidenti della vita, non più si prendono cura di me e mi lasciano solo. Per tante altre, timidi e vili, che per mancanza di coraggio e di fiducia mi abbandonano. Per tanti e tanti, che non trovando il loro tornaconto nelle cose sante, non si curano di me. Per tanti sacerdoti che predicano, che celebrano, che confessano per amore d'interesse e di propria gloria. Costoro fan vedere che sono intorno a me, ma io rimango sempre solo. Ah figlia, quanto m'è duro questo abbandono. Non solo mi piangono gli occhi, ma mi sanguina il cuore. Deh, ti prego di riparare il mio acerbo dolore col promettermi di non lasciarmi mai solo. Sì, o mio Gesù, lo prometto. Aiutata dalla tua grazia e nella fermezza della tua divina volontà. Ma mentre, o Gesù, tu piangi l'abbandono dei tuoi cari, i nemici non ti risparmiano nessun oltraggio, che ti possono fare. Stretto e legato come stai, o mio bene, tanto che da te stesso neppure puoi dare un passo. Ti calpestano, ti trascinano per quelle vie, piene di pietre e di spine, sicché non c'è movimento che non ti faccia urtare nelle pietre e pungerti dalle spine. Ah, mio Gesù, vedo che mentre ti trascinano, tu lasci dietro di te il sangue tuo prezioso, i dorati capelli che dal capo ti strappano. Mia vita e mio tutto, permettimi che li raccolga, affinché possa legare tutti i passi delle creature, le quali anche di notte non ti risparmiano, anzi si servono della notte per offenderti maggiormente, chi per ritrovi, chi per piaceri, chi per teatri, chi per compiere furti sacrileghi. Mio Gesù, mi unisco a te per riparare tutte queste offese, ma, o mio Gesù, siamo già al torrente Cedron, ed i perfidi giudei ti gettano dentro, ti fanno urtare contro un sasso, che ivi è, con tanto impeto da farti versare dalla bocca sangue preziosissimo, di cui lasciasti segnato quel sasso. Poi, tirandoti, ti menano giù, in fondo, a quelle acque putride, in modo che esse ti entrano nelle orecchie, nella bocca, nelle narici. O amore inarrivabile, tu resti inondato e come ammantato da quelle acque putride, nauseanti e fredde. E in questo modo mi rappresenti al vivo lo stato lacrimevole delle creature quando commettono il peccato. Oh, come restano coperte dentro e fuori di un manto di luridezze, da fare schifo al cielo e a chiunque potesse vederle, attirandosi così i fulmini della divina giustizia. Oh, vita della mia vita, può darsi mai amore più grande? Per toglierci questo manto di luridezze, tu permetti che i nemici ti buttino in questo torrente, e tutto soffri per riparare i sacrileggi e le freddezze delle anime che ti ricevono sacrilegalmente e che ti costringono di più che il torrente a farti entrare nei loro cuori e farti sentire tutta la nausea di esse. Tu permetti ancora che queste acque ti penetrino fin nelle viscere, tanto che i nemici, temendo che rimanessi affogato, per riservarti a maggiori tormenti, ti tirano su, ma fai tanto schifo che essi stessi sentono nausea di toccarti. Mio tenero Gesù, sei già fuori del torrente. Il cuore non mi regge di vederti così bagnato da queste acque nauseanti. Vedo che tu tremi da capo a pie per il freddo. Guardi d'intorno, cercando con gli occhi ciò che non fai con la voce. Uno almeno che ti rasciughi, ti pulisca e ti riscaldi. Ma invano. Nessuno si muove a pietà di te. I nemici ti beffano e ti deridono. I tuoi ti hanno abbandonato, la dolce mamma è lontana, perché così il padre dispone. Ecco, mio Gesù, vieni nelle mie braccia. Voglio tanto piangere da formarti un bagno per lavarti, pulirti ed aggiustarti con le mie mani i tuoi capelli tutti scarmigliati. Mio amore, voglio chiuderti nel mio cuore per riscaldarti col calore dei miei affetti. Voglio profumarti coi miei desideri santi, voglio riparare tutte queste offese e mettere la mia vita insieme alla tua per salvare tutte le anime. Il mio cuore voglio offrirtelo come luogo di riposo per poterti rinfrancare in qualche modo dalle pene sofferte fin qui e poi riprenderemo insieme la via della tua passione.